A partire dal 1900 il Nicaragua subì una lunga serie di occupazioni e interventi statunitensi, motivati dal rifiuto nicaraguense di concedere il beneplacito per la realizzazione del canale di collegamento tra i due oceani, Atlantico e Pacifico, che gli Stati Uniti volevano realizzare. Le speculazioni sulla costruzione di un nuovo canale tra gli oceani proseguirono fino ai giorni nostri. Il progetto permetterebbe infatti di gestire il transito delle maggiori navi del mondo, incluse le portacontainer mercantili di dimensioni eccessive, anche per il nuovo sistema di chiuse a Panama. La sua costruzione inoltre accorcerebbe la distanza da percorrere tra New York e San Francisco di quasi 800 km. A proposito del progetto di costruzione del canale del Nicaragua, Sandino scrisse: «Il progetto è concepito in forma tale che il Nicaragua non venderà il suo diritto sul canale che si cerca di aprire nel suo territorio. Il canale del Nicaragua deve essere aperto perché lo richiede la civiltà attuale, ma questa apertura non può essere decisa solo dal Nicaragua con gli Stati Uniti, perché un'opera di tal genere è di enorme importanza per gli abitanti di tutto il mondo». Nel 1911 gli Stati Uniti sostennero l'ascesa alla presidenza del Nicaragua di Alfonso Díaz, un conservatore. Contro questa ingerenza i nicaraguensi insorsero. Il governo statunitense inviò nel 1912 i Marines ad occupare il paese. La presenza di quei soldati permise ai conservatori di mantenere il potere. Nel 1914 essi stipularono un trattato in virtù del quale veniva ceduto agli USA il diritto esclusivo di costruire il canale interoceanico, in cambio il Nicaragua avrebbe dovuto ricevere un indennizzo di 3 milioni di dollari. Questa somma però fu restituita dagli Stati Uniti a saldo dei debiti contratti dal Nicaragua negli anni precedenti. Nel 1926 i Marines lasciarono il paese, ne derivò un conflitto tra liberali e conservatori, noto come guerra costituzionalista, che produsse un governo di coalizione e quindi le truppe statunitensi occuparono nuovamente il Nicaragua. Sandino allora, con i suoi minatori, inizia la lotta armata sia contro i conservatori che contro i Marines. Ed ora ascoltiamoci una canzone di Carlos Mejía Godoy, Il Los de Palaguinas, che si intitola Nicaragua, Nicaraguita. Nicaragua, Nicaraguita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Este es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Creciéndose. La pielita de Tamagas. quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Que lo diga el imperialismo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Vivian. Esa fuerza. La pielita de Tamara, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, cantando, yo te quiero. All'inizio del 1927 l'esercito sandinista, composto inizialmente da 29 uomini, contava ora 300 palmazones, così vennero chiamati i soldati di Sandino, e si attestarono nella regione di Las Segovias. Sandino fece esercitare i suoi uomini nel maneggio delle armi e nella tattica della guerriglia. Gli insegnò l'importanza della posizione del sole, della velocità e della direzione dei venti, l'arte di mimetizzarsi in una posizione, di analizzare le caratteristiche del terreno per farne una trincea, di approfittare di ogni pantano per farne una trappola. Di villaggio in villaggio la piccola colonna incitava la popolazione alla resistenza contro il gringo invasore. Le piccole caserme erano conquistate dopo brevi scontri e i soldati sconfitti erano invitati, con le loro armi, a ingrossare le fila dell'esercito sandinista. Sandino si alleò con i liberali ed inviò 150 uomini per porsi agli ordini del generale Moncada. Nel frattempo riuscì a conquistare Jinotega, che era nelle mani dei conservatori. Dopo la conquista di Jinotega, Sandino poteva contare su 800 uomini ben equipaggiati sotto la sua bandiera rossa e nera. I 150 uomini inviati in aiuto di Moncada intanto erano riusciti a salvare il treno blindato appunto del generale Moncada. Successivamente Sandino con tutti i suoi uomini si diresse dove Moncada era stato posto sotto assedio dalle forze governative. Ma Moncada si rivelò presto un falso alleato, infatti lo inviò ad occupare Boaco, dicendogli che era occupata da truppe ai suoi ordini. Scriverà infatti Sandino: «La sua unica intenzione fu che io venissi assassinato dalle forze al comando del colonnello José Campos, che Moncada teneva lungo la strada per la quale io dovevo passare quella notte». Quando mi incontrai con il colonnello, egli mi comunicò che Moncada non gli aveva detto nulla del mio prossimo passaggio per quel luogo e pertanto, la notte precedente, aveva piazzato le mitragliatrici contro di me, credendo si trattasse del nemico. Moncada, dopo le vittorie di Sandino, aveva aperta la strada verso Managua, capitale del Nicaragua, ma non ne approfittò, preferendo prendere accordi con il colonnello Henry Stimson delle truppe statunitensi, che aveva precedentemente conosciuto e che era stato incaricato dal presidente degli Stati Uniti, Coolidge, di mettere fine alla guerra in Nicaragua. Stimson riuscì a far incontrare il presidente Diaz e Moncada, che firmarono una tregua. L'incontro si tenne a Tipitapa il 4 maggio 1927 sotto un pruno selvatico in spagnolo e spino negro. Per questo, questi furono chiamati gli accordi di Espino Negro. Stinson rappresentava sia Diaz che Coolidge, presidente degli Stati Uniti. Moncada permise ai Marines statunitensi di occupare le alture che dominavano Tipitapa e indusse i capi costituzionalisti a deporre le armi in cambio di $10 per ogni fucile consegnato. Moncada fu poi candidato alle elezioni che si tennero il 5 novembre 1928. Stimson impose il disarmo totale dei costituzionalisti. L'accordo stabiliva che Diaz doveva completare il suo mandato e successivamente ci sarebbero state nuove elezioni, sorvegliate dagli Stati Uniti. Sarebbe stata costituita una forza di polizia nicaraguense istruita e comandata da ufficiali degli Stati Uniti. Al Partito Liberale di Moncada fu concesso il controllo politico di 5 dipartimenti. Sandino accettò l'accordo, ma scrisse: «Così Moncada consegnò le armi. Capì che egli tradiva gli interessi della rivoluzione. Non potevo restare indifferente all'atteggiamento assunto da un traditore. Così passai 3 giorni sul monte del Comun, abbattuto, triste, senza sapere cosa fare, se consegnare le armi o difendere il paese che chiedeva pietà ai suoi figli. Lì, solo, riflettei molto e sentii come una voce straniera che mi diceva: "Vendi patria!" Smisi di pensare e mi decisi a lottare, comprendendo che ero destinato a protestare per il tradimento della patria e degli ideali nicaraguensi e che solo le pallottole avrebbero dovuto difendere la sovranità del Nicaragua, poiché non c'era ragione per cui gli Stati Uniti intervenissero nei nostri affari interni. Fu allora che pubblicai il mio primo manifesto. L'esercito difensore della sovranità nazionale, così fu chiamato, comandato da Sandino, era composto da avventurieri, contrabbandieri, comunisti, sindacalisti, anarchici e socialisti, sia latinoamericani che europei e asiatici. Combatté anche al fianco di Sandino, per un certo periodo, il leader comunista salvadoregno Farabundo Marti. Come riusciva a rifornirsi di armi l'esercito guerrigliero? Una nave era naufragata alla foce del fiume Coco, che trasportava qualche centinaio di fucili del 1899. Sandino si impadronì di queste armi, anche se antiquate. Poi, ad ogni attacco, venivano portati via i fucili Browning e le mitragliatrici Thompson agli invasori, a cui fu preso anche un cannone, che fu usato come arma antiaerea. Inoltre, furono prodotte le cosiddette bombe di Sandino, granate fatte con le lattine vuote di sardine riempite di dinamite e pietre. L'esercito di Sandino poté anche contare su un perfetto servizio di informazione e spionaggio inserito nelle stesse fila della Polizia Nazionale e su un ottimo sistema di comunicazioni che entrava in funzione al minimo movimento delle truppe nemiche. Nel suo primo manifesto Sandino diceva: «Vedendo che gli Stati Uniti del Nord America, con l'unico diritto che dà loro la forza bruta, pretendono di privarci della nostra patria e della nostra libertà, ho accettato la loro sfida ingiustificata, tesa ad abbattere la nostra sovranità, assumendomi ogni responsabilità di fronte alla storia». Racconta ancora Sandino: «Moncada mi offrì il dominio di Jinotega e mi disse che il governo di Diaz avrebbe pagato tutto, che le mule che avessi preso sarebbero state mie legalmente e che per tutto il tempo in cui avevo partecipato alla rivoluzione avrei avuto uno stipendio di $10 al giorno, pagabili seduta stante. Chiesi tempo per decidere e frattanto mi diressi a Jinotega, dove fui accolto cordialmente con fiori e musiche. Parlai dei miei propositi di lottare contro gli Yankees, preparai la mia gente, congedai i timorosi e con 300 uomini mi diressi a San Rafael del Norte, nel cuore delle montagne di Las Segovias. Il 21 maggio 1927, con la collaborazione delle truppe statunitensi, Moncada occupò Jinotega e intimò a Sandino di arrendersi. Il 28 maggio Sandino sposò Blanchita Arauz, la telegrafista di San Rafael, grazie alla quale i suoi uomini avevano imparato a comunicare tra loro con l'alfabeto Morse, usando le percussioni e i fischietti. Il primo scontro tra i rivoluzionari di Sandino e gli invasori avvenne il 12 luglio 1927. Moncada provò a corrompere nuovamente Sandino, offrendogli $100,000. Sandino rispose: «Non mi arrenderò e vi aspetto qui. Io voglio la libertà della patria o la morte. Non ho paura di voi. Conto sul patriottismo di coloro che mi accompagnano». Ed ora ascoltiamoci un canto popolare del Nicaragua, La Luz de Sandino. Bandido, le decía Somoza, a bandolero. El Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir. Somoza le decía a Sandino, bandolero. Sandino nunca tuvo propiedades. Hombres se hinchaban de frío en las montañas y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua. Mientras en casa presidenciales Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Es aquella luz allá a lo lejos, es una estrella. Allá estaban él y sus hombres juntos a las fogadas rocas, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando, cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose las sombras. Su cara era vaga como la de un espíritu de caña por las meditaciones. En la montaña, en la... Sandino riunì in assemblea i contadini dei dintorni e li invitò a unirsi a lui. Il 16 luglio 800 uomini erano pronti per dare l'assedio a Helocotal, che fu presa la mattina stessa, ma poi si ritirò. Sandino tornò nelle montagne di Las Segovias, ma il 27 luglio i Marines li raggiunsero a San Fernando e costrinsero Sandino a fuggire. I Marines adottarono la tattica del terrore ed uccidevano sistematicamente gli abitanti della zona che non si sottomettevano a loro. Dopo la sconfitta di San Ferdinando, seguì quella di Las Flores. Sandino decise quindi di cambiare tattica ed adottare quella della guerriglia, approfittando della conoscenza del terreno. Attaccò quindi la retroguardia degli invasori il 19 settembre, infliggendo molte perdite. Poi, quando la mattina gli aerei statunitensi iniziarono a bombardare, si ritirò. Il piccolo gruppo rimasto con Sandino iniziò a muoversi in maniera sfuggente e di difficile localizzazione. Nel frattempo la United Press e l'Associated Press deformavano i fatti sull'esercito difensore della sovranità nazionale di Sandino, diffondendo notizie di orrendi crimini commessi dai guerriglieri, tacendo quelli commessi dagli invasori. Nel novembre del 1927, a Las Cruces, Sandino scatena la prima di cinque battaglie che si protrassero fino al gennaio 1928, racconta Sandino. Ci imboscammo e ci trincerammo in luoghi convenienti e lì collocammo le nostre mitragliatrici. Arrivò il nemico e aprimmo il fuoco. Fu una carneficina spaventosa. I pirati, così Sandino chiamava gli invasori statunitensi, cadevano come foglie e noi, ben protetti, avevamo appena qualche perdita e dopo il primo scontro tendemmo imboscate alle colonne di rinforzi che arrivavano. L'esercito difensore della sovranità nazionale adottò anche stratagemmi contro il nemico, come ad esempio creare fantocci di paglia per far sprecare bombe all'aviazione o per far andare le truppe che li inseguivano in posti sbagliati. Sandino organizzò nel gennaio 1928 anche la sua falsa morte e i suoi funerali a El Ocotal per depistare i suoi nemici. Ma le forze preponderanti del nemico stringevano sempre più da vicino l'esercito difensore della sovranità nazionale. Sandino riuscì però a superare l'accerchiamento scendendo dalle montagne ed avvicinandosi alla miniera di La Luz. Anche la chiesa era ostile a Sandino. Il vescovo di Granada, alla metà di febbraio, aveva benedetto le armi del battaglione di Marines che partiva per sconfiggere Sandino. Poi però, questo stesso battaglione, arrivato nel villaggio di Iali, saccheggiò la chiesa rubando anche un incensiere d'oro. Poi Sandino riuscì ad ottenere un'importante vittoria il 27 febbraio 1928 a El Bramadero. Nel luglio 1928 Sandino ricevette una lettera di Henry Barbus, direttore del settimanale internazionale Monde, che diceva: «Generale, le mando col mio omaggio quello del proletariato e degli intellettuali rivoluzionari di Francia e d'Europa, che già in molte circostanze mi hanno autorizzato a parlare in loro nome, per dirle che la nostra attenzione si fissa con entusiasmo sull'eroica figura di Sandino e sulle sue ammirevoli truppe». Poi i nemici di Sandino cambiarono tattica e iniziarono a trattarlo con diplomazia. A questi tentativi Sandino rispose il 5 gennaio 1929 dicendo che avrebbe cessato il fuoco quando gli Stati Uniti avrebbero ritirato le loro forze di invasione, quando avessero dichiarato nulli tutti i trattati, patti e accordi che sottomettevano il Nicaragua e respingeva ogni intromissione degli Stati Uniti nelle elezioni e in qualsiasi altra cosa. Nel giugno 1929 Sandino rassegnò le dimissioni da comandante dell'esercito difensore della sovranità nazionale per poter raggiungere il Messico, cercando di trovare appoggio presso governi amici e forse raggiungere anche gli Stati Uniti, dove già suo fratello Socrates teneva conferenze a New York. Il 2 luglio 1929 Sandino raggiunse il Messico. Il suo soggiorno, che egli credeva sarebbe stato di breve durata, si prolungò per quasi un anno. In una lettera del 16 luglio Sandino scrisse: «Vedo offuscarsi le speranze di ottenere in questa Repubblica aiuti per continuare la guerra di liberazione in Nicaragua, ma cercherò contributi economici qui in Messico per ottenere da altre fonti i materiali bellici di cui abbiamo bisogno. Se così non ottengo nulla, preferisco tornare a Las Segovias a difendere con le unghie e con i denti l'integrità della nostra sovranità». Sandino infatti non ottenne molto in Messico. Quando decise di tornare in Nicaragua, che raggiunse il 7 maggio 1930, portò con sé solo due mitragliatrici portatili che dichiarò come attrezzi di carpenteria. In Nicaragua nel frattempo c'erano state delle trasformazioni nelle forze nemiche. Il grosso di esse non era più costituito dai Marines statunitensi, ma da truppe nicaraguensi istruite e comandate da ufficiali degli Stati Uniti. La Polizia Nazionale si era trasformata in Guardia Nazionale, che poteva contare su 5.000 uomini ed aveva in dotazione 400 mitragliatrici. L'aviazione invece rimaneva quella degli Stati Uniti. Nel giugno del 1930 Sandino aveva ripreso a combattere nuovamente. Il 19 giugno i sandinisti attaccarono San Marco, sbaragliando le forze nemiche. Secondo la United Press, nel 1931 si erano svolti ben 23 combattimenti fra i sandinisti e la Guardia Nazionale, in cui i primi erano risultati vincenti ed erano state catturate molte armi e munizioni che sarebbero servite per l'offensiva che Sandino si preparava a lanciare in novembre. Ed ora ascoltiamoci Los Explosivos di Carlos Mejía Godoy. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. ¡Claro que sí! Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. De calle en calle llamando a las masas a la insurrección. ¿Cuáles son los ingredientes del detonante casero? Está el nitrato de amonio y está el aluminio negro. El perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho. Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. ¡Como en septiembre! Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón vegetal y grasa, azúcar y aserrín. Estas son las coplas libertarias que la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Si el tal nitrato de amonio te cuesta mucho encontrar, en la fábrica de abono lo podés recuperar. Si es el aluminio negro, lo consigo por quintales en las fábricas y centros de pinturas comerciales. Hablemos de un explosivo eficaz como ninguno. Me refiero al conocido por fórmula R1. ¡Este es el tremendo! Lleva en nitrato de amonio 85%. Un 10 de aserrín le pongo y un 5 aluminio negro. Estas son son las copas libertarias de la gigantona revolucionaria que con su comparsa de liberación va de calle en calle llamando a las masas a la insurrección. Pa' que el R2 se sienta, este porcentaje pongo. Nitrato amonio 60 y un 11 de asfalto en polvo. Aquí lo llevo apuntadito. De perclorato de potasio, un 20 le agrego yo. Aluminio del negrito, un 9 de proporción. Para seguir la tarea, entramos al R3. Nitrato de amonio 80, asfalto sólido 10. ¡Poderoso! Para llegar al final de este explosivo tremendo, le meto el nacatamal aluminio 10%. ¡Patria libre! ¡Estas son las copas libertarias de la gigantona! In Nicaragua si era deciso di convocare le elezioni per il 16 novembre 1932. Sandino, il 28 luglio 1931, in un manifesto appoggiò l'astensione alle urne elettorali, dichiarando: «Controlliamo attualmente 8 dipartimenti e se non abbiamo preso città è perché questo non fa parte ancora del nostro programma, ma lo faremo, senza dubbio, quando sarà il momento». Fu formata una giunta di notabili per raggiungere un accordo per un'amnistia generale. Sacasa, liberale, e Chamorro, conservatore, raggiunsero un'intesa che però fu rifiutata da Moncada. Le truppe statunitensi iniziarono ad abbandonare il Nicaragua nel dicembre 1932, anche per le ingenti perdite subite in questi anni di occupazione. Le elezioni videro un forte astensionismo e portarono all'elezione a presidente di Sacasa, liberale, ma avversario di Moncada, che si insediò il 1 gennaio 1933. Sandino rispose proclamando il territorio libero delle Segovias, con presidente provvisorio un suo generale, Juan Gregorio Colindres. Già agli inizi di gennaio, però, ci fu un primo tentativo di colpo di Stato della Guardia Nazionale, comandata da Anastasio Somoza. Ad ottobre i sandinisti prendono la piazzaforte di San Francisco Carnicero, a 3 ore di marcia dalla capitale Managua. Poi però l'esercito di Sandino si ritira dopo aver preso i timbri del tribunale per dare validità alle sue disposizioni amministrative e giudiziarie. Sandino sollecitò quindi i governi dei paesi latinoamericani a riconoscere il suo governo. Sacasa iniziò una trattativa con Sandino che fiducioso mandò sua moglie a partorire a San Rafael del Norte, ma la Guardia Nazionale la arrestò. Sacasa allora telegrafò che la liberassero, ma il distaccamento della Guardia Nazionale locale non obbedì. Il 12 gennaio 1933 il padre di Sandino e Salvatierra, incaricato di trattare con i sandinisti, arrivarono a San Rafael del Norte, dove poterono incontrare la moglie di Sandino, che nel frattempo era stata liberata. Salvatierra incontrò Sandino il 19 gennaio. Fu raggiunto un accordo per una tregua a partire dal 23 gennaio per 15 giorni, durante i quali sarebbe stato trattato l'armistizio finale. La Guardia Nazionale violò però la tregua. Nonostante ciò, Sandino chiese di incontrare Sacasa a Managua, dove arrivò il 2 febbraio. Sacasa e Sandino redassero un accordo di pace che prevedeva un decreto di amnistia per coloro che entro 15 giorni avessero deposto le armi o la promessa di deporle entro 3 mesi. 100 combattenti avrebbero invece potuto temporaneamente conservare le loro armi per la protezione della zona di terreno incolto dove gli era stato concesso di insediarsi e di lavorare. Ma la Guardia Nazionale continuò ad aggredire ed attaccare i combattenti di Sandino, anche già disarmati. Sandino si recò quindi più volte a Managua per avere maggiori garanzie di rispetto dell'accordo di pace. Durante l'ultimo incontro, Sandino e i suoi generali furono invitati a cena dal presidente, poi se ne andarono via in auto, ma quando lungo la strada arrivarono ad un posto di guardia, un sergente intimò l'alta all'auto e, dicendo che erano loro prigionieri, li fecero salire su un camion e li portarono via. Poco dopo Sandino e i suoi ufficiali vennero fucilati. Non fu l'unico assassinio della notte. Nel frattempo la Guardia Nazionale accerchiò vivi lì, dove si trovavano la gran parte dei combattenti sandinisti ormai disarmati, e li massacrò. Uno dei membri della Guardia Nazionale che prese parte all'assassinio dichiarò poi che poco prima dell'agguato Anastasio Somoza in una riunione disse: «Vengo dall'ambasciata americana, dove mi sono incontrato con l'ambasciatore, che mi ha assicurato che il governo di Washington appoggia e raccomanda l'eliminazione di Augusto César Sandino». Il 1 gennaio 1937 Anastasio Somoza prese il potere con un colpo di Stato e iniziò in Nicaragua una dittatura che continuò di padre in figlio fino al 1979, quando il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale cacciò i Somoza. Per chi volesse approfondire, consiglio la lettura del libro di Gregoria Seltzer «La guerriglia contro i Marines, Sandino, generale di uomini liberi». Qui si conclude anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima.